tempo che già mi stavi tentando, Dio. Radici nomadi e il culto del disincanto, Dio. Il primo incontro lo sai che ti sto già amando, Dio. Il mondo è meraviglioso come Louis Armstrong. Ti accorgi dell'errore quando è troppo tardi. Fanculo e commenti degli altri, siamo diversi dagli altri. Tu che mi uccidi, Dio, che non posso fermarti. Tu che mi uccidi e io ti sprono ad ammazzarmi. Avrei voluto allontanarti e cancellarti dal ricordo. Ed ogni volta l'ansia mi cingeva il collo. Ed ogni notte mi sentivo troppo stupido e smarrito. Ed ogni giorno ti cercavo nella prima luce del mattino. Ostaggio a San Quintino come Ron Decker. Il mio aguzzino sorride, poi stringe le catene. Ora respiro meglio, ma non respiro bene. È stata l'ultima davvero e non ritornerà. Lancetta prima della ora X. Sembro Max Pezzali, sei un mito, io sono già qui. La tensione mi alza, di un semitono la voce. Tutto il resto rimbalza, è il mio cervello che cuoce. Solo tu mi fai giocare con le cose sopra il tavolo. Seccare le parole, parlo poco imbarazzato. Lo so che ho sbagliato, sì, ma non chiedo perdono. Non ti chiedo baby torna, sarei finto come loro. Ma l'istinto che ero solo, magnetizza verso te. Non ascoltare l'ex, è ciò che dici su di me. E trova quella troia che dice che faccio il papa. Ammesso che lei esista, mi ripeta tutto in faccia. Cancella la mia fettina penale. Togli il piombo dai tuoi piedi, poi sciogli il freddo glaciale. Puoi mentirmi e dire che io non ti importo, ma spiegami perché mezz'ora dopo diventiamo solo corpo. Condizione di partenza tipo di un tipo che vuol parlare di sé, non dire la sua situazione. 20 anni laurea, tutto bene, qualche tentazione. Cosa ordinare, 20, lui coi suoi di legge in casa. A volte manca l'aria, ma ripete che a 20 può capitare. Giacomo dice è normale, ma a volte pensi. Se bruci passa il tempo, ti fotti gli anni migliori. Sbalzi di umori, già inquadrato dalle superiori. Nel resto tutto a posto, 3 anni quasi. Locali, parti privati, stesso costo, fere separate. Si sa che ognuno deve avere il suo spazio, un costo, l'imbarazzo, frasi di altri coetanei. Chi li vede già sposati, cari amici interessati a dimostrarsi interessati a dar momenti imprivati nella tua vita, fino a stritolarla, soffocarla. Cosa intendi? Niente. Cosa pensi? Niente. Il silenzio uccide.